America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, comincio con l'anticiparvi un'intervista esclusiva che ho fatto con Nouriel Roubini, l'economista che ha anticipato la crisi finanziaria. Nouriel, che conosco da molti anni e con cui abbiamo a lungo ragionato su questioni economiche anche sulle pagine del nostro giornale, ecco, mi ha dato questa intervista in italiano. Passiamo a questioni che riguardano più direttamente la cronaca e la città. New York in qualche modo è già tornata alla normalità dopo la paura per la bomba. Sentiamo il sindaco Bloomberg. You know, we often say that when a terrorist is caught, he has a map of New York City in his pocket. And that's a conversation I had earlier tonight in Washington. Bloomberg cerca di rassicurare, dice che ci saranno presto nuove telecamere, nuove misure di sicurezza, soprattutto in posti affollati. È una città con una fortissima tempra. Sono stato per strada, sono stato a Times Square ieri pomeriggio, persone per strada, come se non fosse successo assolutamente nulla. Eppure ci si rende conto, c'è sempre un retropensiero che suggerisce che dopo 11 attentati andati male, chissà, forse ce ne sarà anche un altro. Si ragiona anche sull'autore di questo attentato. Non sembra che possa essere davvero legato a un'organizzazione strutturata come Al-Qaeda. Si pensa magari anche a uno straniero, è circolata anche questa ipotesi ieri, ma qualcuno di isolato. Poi sappiamo, Al-Qaeda purtroppo dispone di terroristi suicidi. Questo non aveva l'aria di essere un terrorista suicida. Ha lasciato la macchina parcheggiata e se n'è andato. Ecco, la voce che avete sentito del leader iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha parlato ieri alle Nazioni Unite, un discorso, devo dirvi, francamente, come sempre succede, alquanto originale, per non dire delirante, perché è arrivato a dire che l'Italia rappresenta una minaccia nucleare per Teheran, perché dice che gli Stati Uniti hanno delle basi nei paesi europei, chiede che queste basi militari siano tutte chiuse, soprattutto che siano smantellate le armi nucleari che sono disponibili in queste basi, e ha citato specificatamente, oltre alla Germania, l'Olanda, anche il nostro paese. Non va da nessuna parte il discorso di Ahmadinejad, e dunque l'America in queste riunioni dell'ONU sulla revisione degli accordi del trattato per la non proliferazione nucleare cercherà di trovare a questo punto la coalizione necessaria per andare avanti con le sanzioni. Bene, allora vi avevo promesso una chiacchierata con Nouriel Roubini, grande economista internazionale, grande profeta di alcune delle crisi che abbiamo visto. Lo incontriamo qua a New York al Mercer Hotel. Nouriel, intanto una cosa diciamo un po' personale, tu abiti qua vicino, non sei lontano da qua, è vero? Sì, abito circa 10 minuti da Seoul. Sono leggendarie anche le feste che fai, per cui tu sei un economista che ha anche un angolo così simpatico e aperto, è vero? Beh, ti invito la prossima volta alla prossima festa. Avrò un book party per il mio nuovo libro che uscirà fuori a metà maggio. Benissimo. Che viene pubblicato anche in Italia. Benissimo, allora, lo hanno ascoltato alcune centinaia di migliaia di ascoltatori, quindi non potrai tirarti indietro. Passiamo alle crisi. Tu hai un piano B. L'altro giorno hai scritto un articolo sul Financial Times in cui dicevi: cerchiamo di ragionare, cerchiamo di mettere insieme le cose sulla Grecia per così dare un esempio che le cose possono funzionare per il resto dell'Europa. Qual è il tuo piano B? A mio parere i problemi del debito della Grecia non potranno essere risolti tramite una riduzione di questo deficit fiscale, perché la riduzione è enorme, si aspettano un 10% del PIL di riduzione delle spese o aumento delle tasse, che secondo me è quasi impossibile da ottenere. È meglio pensare a un programma nel quale, in aggiunta a questo aggiustamento fiscale, vi sarà una ristrutturazione del debito pubblico della Grecia, cosa che è stata fatta in altri paesi emergenti nell'ultimo decennio, quindi una trasformazione delle maturità del debito, spingere nel futuro, ridurre il tasso di interesse sul nuovo debito in una maniera tale che il debito rimane più basso e più sostenibile. Ecco, altri paesi europei, la Spagna, i pro e i contro della Spagna. Beh, per certi aspetti la Spagna è una situazione migliore della Grecia, perché il deficit e il debito pubblico rispetto al PIL sono più bassi e l'ammontare dei risparmi nazionali rispetto al PIL più alta, ma ci sono quattro dimensioni nelle quali la Spagna è in una situazione peggiore. Uno, il tasso di disoccupazione al 20%, mentre è solo 10% in Grecia. Due, la Spagna ha avuto una bolla immobiliare che adesso si è esplosa e quindi i costi sulla economia reale di questa crash sono pesanti. Tre, le banche spagnole hanno adesso delle grosse insolvenze, i costi fiscali di salvare le banche spagnole saranno molto alti. E quattro, nel periodo del boom economico in Spagna la perdita di competitività fu anche maggiore rispetto alla Grecia, perché i salari crescevano ancora più velocemente rispetto alla produttività. Quindi sotto queste dimensioni le cose potenzialmente in Spagna sono ancora peggiori che in Grecia. Ecco, Nuriel, lasciami essere provocatorio su un punto. È colpa dei paesi o è colpa degli attacchi degli speculatori, di hedge fund, di derivati, di finanza senza controllo, di leva eccessiva, di attacchi feroci che passano da un paese debole all'altro senza dargli la possibilità di riprendersi? Cosa ne pensi? A mio parere la verità è un po' a metà. Da un lato gli speculatori non potrebbero attaccare in maniera forte paesi i cui fondamenti economici e fiscali sono forti, quindi la debolezza dei fattori di policy è la causa di questi attacchi, quindi non si può semplicemente criticare gli speculatori. Da un altro lato, quando i fondamentali economici sono deboli, è molto più facile poi per gli speculatori cercare di colpire un paese, e quando vendono del sangue per la strada poi, come gli squali, attaccano più pesantemente. Quindi la verità è un po' di mezzo, nel mezzo. Ecco, e sulla riforma che sta proponendo l'amministrazione Obama, c'è qualche cosa che gli stati, i paesi, le nazioni possono fare per limitare l'impatto negativo? Cioè, si dice che i derivati servono per riequilibrare certe cose, però i derivati anche diventano uno strumento poi che va al di là della speculazione. Ecco, è sufficiente quello che ha fatto l'amministrazione Obama? Certamente bisogna cercare di restringere le speculazioni basate sui derivati, e certamente nel caso dei CDS, dei credit default swaps, avere dei naked short contro un paese o delle banche ha degli effetti destabilizzanti. Potrebbero esserci delle restrizioni che dicono che se vuoi usare i CDS devi avere un interesse materiale in quella particolare security, che vuol dire che hai una posizione long che vuoi fare un hedge. E la maniera in cui gli Stati Uniti stanno cercando di implementare questa idea di fare in modo che il clearing delle derivate avvengano su un exchange o una clearing house, dove i collateral e il capitale che viene domandato sarebbe molto maggiore, per fare in modo che non vi sia questo counterparty risk. Bene, un'ultima domanda, un pronostico sull'euro. Qualcuno dice che potrebbe fratturarsi. Direi che certamente oggi la probabilità che alcuni paesi che sono adesso membri dell'euro ne vengano fuori, in particolare in questo momento la Grecia, è una probabilità che è aumentata molto rispetto al passato. Secondo me ci sono ancora modi, facendo politiche di austerità fiscale, accelerando le riforme strutturali, per evitare un crollo dell'euro. Quindi non sto prevedendo un crollo dell'euro, ma certamente la probabilità che a medio termine alcuni paesi non riescano a vivere all'interno dell'Unione Monetaria è una probabilità che è aumentata nel tempo. Bene, ringraziamo Nuriel Rubini a New York. A presto. Piacere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma che resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, voi tutti conoscerete i Simpson, i grandi Simpson rompono a questo punto una tradizione e dopo 20 anni cambiano la loro sigla. Questo fine settimana la famiglia più famosa d'America ha deciso di rendere omaggio a Kesha, una cantante pop californiana giovane diventata famosa con il tormentone TikTok. Don't stop, make it pop, DJ, don't speakers up tonight. I'ma fight till we see the sudden light. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento domani. Goodbye and get going! America 24.